ci spinge a cercare qualcosa, un qualcosa che non sappiamo neanche bene come individuare, come identificare, e la necessità assoluta di trovarlo. Tutto questo l'ho inserito, l'ho iniettato in Fran. Fran però è un ragazzino che ha anche forse un'eccessiva libertà, perché come vediamo i genitori che gli sono toccati in sorte sono una coppia un po' poco strutturata, quindi non si occupano proprio tantissimo di lui, il che ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi. Il positivo è che lui ha forse tanta libertà, infatti a un certo punto la madre gli dà le chiavi di casa, lui con quelle va e viene e diciamo si organizza la sua vita a suo piacimento. Io certamente non ho usufruito, goduto di tanta libertà, quindi è stato anche un po' un modo di ribellarmi, quello di conquistarmi questa libertà adolescenziale che non ho avuto attraverso Fran. Para lo que quiera, cosa que yo no pude hacer en mi adolescencia, digamos, que me he revelado y la he conquistado a través de Fran. Io ricordo in una delle ultime interviste con Clara Sanchez, qui al Cacciatore di Libri, che insomma chiacchieravamo su come gli scrittori siano un po' ladri delle vite degli altri, no? Perché osservano molto, guardano, interpretano. Oggi per esempio Clara Sanchez, appena mi ha visto, ha notato qualcosa nel mio sguardo. Adesso non diciamo cosa perché sono fatti nostri privati eccetera, però quello che vi posso assicurare è che è una delle scrittrici che ha la capacità di leggere veramente nel volto, negli occhi delle persone. Secondo te questa capacità l'hai sempre avuta, cioè ti ha sempre accompagnato nella vita, o l'hai affinata nel tempo, appunto diventando scrittrice, poi avendo la capacità di mettere nero su bianco quello che vedi nel volto delle altre persone? Yo creo que soy escritora porque no puedo dejar de mirar a las personas. Y voy a explicar por qué me pasa esto. Me viene de la infancia. Beh, sì, io penso, cioè, di essere diventata una scrittrice proprio per questa ragione, perché non posso assolutamente evitare di guardare, di osservare molto le persone. Questo è un qualche cosa che mi viene sin dall'infanzia. I miei genitori erano una coppia che, se vogliamo, aveva un rapporto reciproco molto più difficile rispetto a quello dei genitori di Fran. Diciamo che non tenevano nulla per sé, manifestavano assolutamente tutto e sempre con toni abbastanza eccessivi, quindi se erano tristi erano estremamente tristi e depressi, se erano allegri erano felicissimi. E ricordo che quando io tornavo a casa da scuola, appena aprivo la porta e guardavo il viso di mia madre, perché sapevo che dalla sua espressione avrei capito come fossero andate le cose quel giorno, se erano stati tranquilli, se avevano litigato, se erano depressi. Diciamo che io lo capivo tutto attraverso la sua espressione, attraverso i suoi occhi. Quindi sin da bambina ho imparato a leggere, per così dire, i sentimenti, i pensieri delle persone attraverso l'espressione del volto e in particolare attraverso gli occhi. Non è un qualche cosa di cui sono andata alla ricerca. Ci sono nata come con il colore dei miei capelli, ma con il tempo è diventata una sorta di abitudine, quasi un vizio, e mi rendo conto che a volte eccedo un po', che guardo con troppa insistenza le persone. Mi capita in metropolitana che magari fisso una persona e mi chiedo: ma con quella faccia chissà che cosa gli è capitato oggi? Mi rendo conto che magari qualcuno può sentirsi anche a disagio, quindi dovrei magari contenermi un po'. Con te non l'ho fatto perché c'è tanta confidenza fra noi. Un pochito, però contigo Alessandra non mi ho reprimito, o sea, perché hai confidenza. Io a questo punto quello che posso dirvi è, oltre a consigliarvi naturalmente di leggere questo libro di Clara Sanchez, La meraviglia degli anni imperfetti, pubblicato da Garzanti, e che se avete la possibilità andate a qualche presentazione dei libri di Clara Sanchez, magari qualche festival. Lei viene spesso in Italia, perché vi assicuro che poi, conoscendola, cioè guardando anche lei negli occhi, si capiscono, sì, molte cose dei libri che scrive. Quindi c'è, come dire, un'interazione fra pubblico e scrittore che secondo me è molto molto bella. Grazie a Rossana Ottolini per averci tradotto questa intervista. Invece il libro, lo ricordiamo, è stato tradotto da Enrica Budetta. Grazie naturalmente a Clara Sanchez, l'appuntamento sarà al tuo prossimo libro, come sempre. Grazie, grazie mille. Un bacio a tutti. Clara Sanchez quindi è stata con noi, una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. in collaborazione con Euronet Plus, il cacciatore di libri. Ora veniamo a quella che è stata definita la signora del thriller italiano. Si chiama Elisabetta Cametti, oltre a scrivere libri fa la manager di una casa editrice straniera. Forse qualcuno di voi la conoscerà anche di viso, nel senso che lei è una degli ospiti fissi di Mattino 5, appunto su Canale 5 parla di fatti di cronaca. Per quanto riguarda invece il suo lavoro da scrittrice, è diventata famosa con la serie K. Erano due i romanzi thriller, K, I guardiani della storia, e K, Nel mare del tempo. E la lettera K stava per Catherine Sinclair, che era la protagonista della serie, di questi romanzi dove si mescolavano presente e passato remoto. Ora invece, con il nuovo romanzo, c'è un'altra protagonista femminile. Si chiama Veronica Evans. È una fotoreporter newyorkese che è diventata famosa per le sue foto scioccanti, che ottengono veramente milioni di visualizzazioni al giorno sui social. Un anno prima Veronica aveva partecipato ad una puntata di un talk show che aveva vinto anche un Emmy Award, e tutti gli altri ospiti però di quel programma sono stati trovati uccisi e tra l'altro orrendamente sfigurati. Insomma, non vi descrivo i particolari, ma leggendo il libro naturalmente capirete. Veronica, essendo l'unica sopravvissuta fra questi ospiti del talk show, è una dei sospettati. Ad indagare è una profiler, Barbara Schiller, quindi c'è questo, come dire, confronto fra Barbara Schiller e Veronica Evans. E la cosa curiosa di questo romanzo è che tutta l'indagine e tutti i fatti si svolgono in 29 ore. 29 non è un numero scelto a caso dall'autrice, poi lo sentirete nell'intervista. E allora sentiamo come Elisabetta Cametti ci parla delle sue protagoniste di questo romanzo, che non abbiamo ancora detto, si intitola Il regista, è pubblicato da Cairo Editore ed è il primo della serie 29, quindi vuol dire che il personaggio, insomma, di Veronica Evans tornerà in altri romanzi seriali, insomma in altri thriller seriali. La parola a Elisabetta Cametti. Veronica Evans e Barbara Schiller. Veronica Evans è una fotoreporter newyorkese molto discussa per le foto che pubblica, perché lei ritrae i lati più cupi della metropoli, quindi senza tetto che muoiono di stenti sui marciapiedi, cani randagi, ha molti fan, è molto seguita e in tutti quei fan si può nascondere chiunque. Barbara Schiller invece è una profiler del New York Police Department, una donna molto complicata, molto intelligente, ma anche lei con un passato oscuro, quindi due donne molto diverse che si troveranno in questa avventura a dare la caccia a un regista, cioè un regista del male che con la sua strategia omicida sta per scrivere una nuova pagina della storia del crimine. Come ti è venuta in mente l'idea di questa trama? Volevo creare qualcosa di molto diverso rispetto alla saga di K, quindi non solo nuovi protagonisti, ma un thriller vero che si consumasse in pochissime ore. Ho pensato al 29 perché il 29 è un numero che ritorna nelle statistiche dei serial killer. Alcuni serial killer uccidono le vittime a 29 anni. Il numero medio di vittime di altri serial killer è 29. Negli Stati Uniti il 29% dei serial killer è itinerante e il 29% delle donne killer uccide a casa propria. E fino a poco tempo fa in Italia c'erano 29 killer non ancora identificati. Quindi questo 29 non è assolutamente casuale? Non è per niente casuale, nel simbolismo anche rappresenta anche la bara, ahimè. È il numero dell'ostilità, il numero del pericolo e della bara, che lasciatemi dire è la morte sua per un thriller. In questo romanzo si parla tutto al presente, diciamo, si svolge tutto nell'epoca contemporanea, non hai fatto, diciamo, un gioco con il passato come è capitato in altri romanzi. Hai deciso di concentrarti su questo aspetto? In questo romanzo sì, ma proprio per quello che dicevamo prima, perché volevo che fosse un romanzo completamente diverso dalla serie precedente, e anche questo è un romanzo, è il primo della serie 29, quindi ci saranno tanti romanzi, sempre con Veronica Evans come protagonista, tutti ambientati nel presente e tutti si svolgeranno in pochissime ore. Più avanti nel tempo, probabilmente tra un paio d'anni, Veronica Evans incontrerà Catherine Sinclair. Questo ce l'eravamo detto un po' di tempo fa, che probabilmente si sarebbero incontrate. Ma perché a voi giallisti piace così tanto la serialità e i personaggi seriali? Io parlo per me, io di solito detesto, mi fanno molto male le storie che finiscono, le cose che finiscono, e quindi mi affeziono molto a tutto, soprattutto ai miei personaggi, quindi dare continuità ai miei personaggi è un po' come crescere insieme a loro, vivere un pezzo, fare un pezzo di strada insieme a loro, e quindi questa cosa mi aiuta moralmente. Strano detto da un giallista, visto che in genere una vittima c'è sempre. Nei miei ce ne sono tante di vittime, devo dire che fatte 100 i personaggi di dei miei thriller, almeno 89-90 muoiono, quindi sì, almeno chi indaga deve sopravvivere, almeno il protagonista principale, ma solo il protagonista principale. Non anticipo nulla, ma in questo romanzo ci saranno molti colpi di scena, soprattutto alla fine, e anche personaggi importanti e protagonisti importanti, ahimè, faranno una brutta fine. E questa era Elisabetta Cametti, autrice di Il Regista, il primo thriller della serie 29 pubblicato da Cairo Editore. Vi segnalo che sarà online sul sito del Sole 24 Ore a partire da martedì 8 marzo una nuova puntata di Autori, le strade della narrazione. Si tratta di un programma nuovo, di un programma video in cui gli scrittori leggono un piccolo brano del proprio romanzo, ma poi soprattutto lo raccontano a modo loro. Non c'è, diciamo, un intervistatore, loro sono liberi di descrivere il proprio romanzo, il proprio libro, proprio come desiderano. Questa volta, quindi, l'8 marzo è la volta di Elena Pigozzi, autrice di Uragano d'estate, pubblicato da Marsilio. Sentiamo un breve estratto di quando la Pigozzi ci legge appunto un brano del suo romanzo. Si incantò Ferdinando nell'immagine di una corsa nei boschi. Si incantò come quando capita che nella mente scorrano immagini e le parole non si mettano in fila, o come quando si fissa qualcosa, lo sguardo vago e lontano. Invece, gli occhi osservano dentro, pensieri e ricordi che sfarfallano, che si inseguono e che sfumano. L'appuntamento con Autori, le strade della narrazione, è dunque per martedì 8 marzo online sul sito del Sole 24 Ore. E per finire un'ultima segnalazione che riguarda il Casinò di Sanremo, perché il Casinò di Sanremo non è solo un luogo dove si va a giocare, insomma, ma anche un luogo culturale. Con l'iniziativa I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. È una rassegna che vede passare da Sanremo, insomma, diversi scrittori, sia narratori che saggisti. A proposito dei prossimi appuntamenti, ci sarà Serena Dandini, ma ci sarà anche Maurizio Molinari della Stampa, che parla del califfato e del terrore, dell'Islam estremo. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Naturalmente, per avere il calendario dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo basta andare sul sito del Casinò di Sanremo. E ancora una segnalazione prima di chiudere, a proposito di Dedica, che è un appuntamento, insomma una rassegna monografica ormai tradizionale che si svolge a Pordenone dal 5 al 12 marzo. Quest'anno è dedicata, appunto una rassegna monografica, è dedicata allo scrittore Yasmina Kadra. Lo so, Yasmin è un nome da donna, lui in realtà è un uomo, ma ha usato questo pseudonimo, che è in realtà il nome della moglie, per evitare la censura. Lui è un algerino, ha combattuto contro l'integralismo islamico in Algeria già negli anni 90 e per questo, diciamo, ha una visione molto lucida sulla situazione internazionale, riconosce anche gli errori dei governi occidentali. È un intellettuale, appunto, arabo-musulmano, vive a Parigi ed è impegnato a favore del dialogo e dell'integrazione. A Pordenone dunque dal 5 al 12 marzo la rassegna Dedica, dedicata appunto a Yasmina Kadra, che sarà presente in questi appuntamenti. Ci sono incontri naturalmente con l'autore, ma anche proiezione di film, musica, teatro, insomma tutto il calendario su www.dedicafestival.it. E anche per oggi è tutto, grazie in regia a Roberta Frisani e Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it in podcast. Potete seguirmi per essere sempre aggiornati su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.